Bentornati, sono Enrico Pagliarini. Da questa puntata abbiamo nuove sigle, nuovi suoni, quindi non temete, quello che sta per iniziare non è un altro programma, ma è 2024. Di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, benvenuti o bentornati se questa è la vostra prima puntata. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24, siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica 13:30, 14, con una breve replica. Ci trovate su Facebook o su Twitter, basta cercare Enrico Pagliarini oppure 2024. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Tra poco le nostre digital news, le notizie che selezioniamo durante la settimana, poi parleremo anche del caso che contrappone Apple ed FBI. Ci sono notizie quasi tutti i giorni, ma ci sono alcuni principi di cui si sta dibattendo, si sta parlando un po' in tutto il mondo. Parleremo anche di smartphone, naturalmente molte delle novità che sono arrivate dal Mobile World Congress di Barcellona. Non ci sono state tantissime novità, ma alcune sicuramente molto interessanti. Tra queste, ad esempio, la eSIM. La SIM integrata nei terminali mobili, non solo smartphone, che farà scomparire le SIM che così come le conosciamo oggi. Ci occuperemo anche di pagamenti mobile, con una novità che è stata presentata questa settimana. Questo ed altro nella nuova puntata di 2024. E adesso le nostre digital news. Digital news. Iniziamo dalla realtà virtuale perché HTC ha annunciato che dal 29 febbraio potrà essere prenotato il visore per realtà virtuale HTC Vive. Allora, costerà $799, sarà corredato però da due controller wireless, quelli che si tengono in mano per determinare alcuni dei movimenti che vengono fatti nella realtà virtuale. Poi ci saranno due stazioni base, due base station che servono per rilevare la posizione del corpo e i movimenti che uno fa mentre ha in testa questo visore, e poi ci sono anche due cuffie. Beh, costa molto, ma c'è qualche cosa. Le consegne sono previste da aprile. Per quanto riguarda i prezzi in euro, bisognerà attendere lunedì, quando si potrà andare sul sito per prenotare e si scoprirà anche qual è il prezzo in euro. Digital news. Per tentare di trovare un linguaggio standard per una piena interoperabilità nella casa connessa, questo è un problema di cui abbiamo parlato altre volte, cioè un linguaggio che permetta di gestire vari oggetti con un'unica app, un'unica applicazione, o comunque ridurre il numero di applicazioni, alcuni operatori del settore hanno fondato la Open Connectivity Foundation. Ne fanno parte molti player dell'elettronica di consumo e molti integratori di soluzioni per la smart home. Digital news. Al Mobile World Congress è stata presentata anche un'auto mobile, un'auto elettrica, la nuova Nissan Leaf, piena di tecnologia, a partire dalla possibilità di controllare in remoto dallo smartphone alcune delle funzioni dell'auto, e questo è sicuramente uno dei motivi per cui è stata presentata al Mobile World Congress. Però proprio sulla Leaf però si sono concentrate le attenzioni di un esperto di sicurezza informatica che è riuscito ad entrare nel sistema di bordo. Ora la Nissan sta cercando di risolvere il problema, comunque il punto non sta su questa automobile. Il punto vero, di cui abbiamo discusso anche in altre occasioni, è che l'industria automobilistica si sta buttando in un nuovo mondo dove la sicurezza, anche non solo quella dell'automobile così come la conosciamo oggi, ma la sicurezza informatica dei sistemi di bordo, la cyber security, diventa un fattore determinante. Quindi bisogna investire molti soldi, molte risorse anche in questo settore. C'è un nuovo capitolo nella battaglia legale che contrappone Apple e Samsung. Allora, Apple ha perso una parte in questa lunga battaglia legale. Un tribunale d'appello federale ha stabilito che Samsung non ha infranto alcuno dei brevetti oggetto della disputa e per questo motivo non dovrà pagare la multa da $120 milioni che aveva stabilito un tribunale di primo grado. Digital news. Una notizia che riguarda lo spazio e i futuri viaggi spaziali. Virgin Galactic ha presentato questa settimana il nuovo Virgin Spaceship Unity, la nuova navetta che nel giro di alcuni anni porterà in volo suborbitale, ma si potranno provare le tipiche sensazioni dello spazio, i primi turisti spaziali. Circa 700 persone hanno già prenotato un viaggio pagando una caparra da $250,000. Digital News. Allora, adesso parliamo del caso della battaglia che contrappone Apple e l'FBI, la Apple da una parte e di fatto il governo dall'altra. Tramite un giudice, l'FBI aveva chiesto aiuto all'Apple per sbloccare l'iPhone di uno dei terroristi della strage di San Bernardino. Inizio di dicembre, 14 morti, se ne è parlato molto, un caso che ha scosso gli Stati Uniti nelle ultime settimane. Apple, lo abbiamo detto anche la settimana scorsa, si è opposta, tra l'altro questa settimana ha presentato anche una documentazione particolareggiata al tribunale. La causa si discuterà a partire dal 22 di marzo, quindi vedremo poi quello che succederà. Apple continua a sostenere la sua tesi dicendo: noi non abbiamo quello che ci state chiedendo, cioè non abbiamo quel software per sbloccare tutta una serie di fattori su quell'iPhone, come spiegheremo tra poco. Dovremmo costruirlo, ma Tim Cook ha detto più volte, e lo ha detto anche questa settimana, lo ha ribadito questa settimana in un'intervista molto interessante sulla ABC, sulla TV americana ABC, ha detto: non vogliamo scrivere quel software perché sarebbe come costruire il corrispondente del cancro. This case is not about my phone. This case is about the future. What is at stake here is, can the government compel Apple to write software that we believe would make hundreds of millions of customers vulnerable around the world, including the US? The only way we know would be to write a piece of software that we view as sort of the software equivalent of cancer. We think it's bad news to write. We would never write it. We have never written it. E questa è la voce di Tim Cook che parla con il giornalista della ABC e dice: questo è un caso che riguarda il futuro. Può il governo obbligare Apple a costruire un software che noi riteniamo possa mettere a rischio milioni di telefoni in tutto il mondo? Noi riteniamo che un software di questo tipo sia l'equivalente del cancro. Non lo abbiamo scritto e non lo vorremmo mai scrivere. We believe that is a very dangerous operating system. But if the one of the bad guys knew that that existed, think about the target that is. Everybody would want that operating system. Because you could get in, it has the potential to get into any iPhone. Dice Tim Cook: pensiamo che sia un sistema operativo quello che l'FBI vorrebbe che Apple costruisse, programmasse, un sistema operativo molto pericoloso. Pensate se uno dei cattivi sapesse che esistesse un software così. Ognuno lo vorrebbe perché potrebbe potenzialmente entrare in tutti gli iPhone. Questa è una cosa che non dovrebbe essere creata. This is not something that should be created. In settimana c'è stata anche un'altra intervista che ha fatto molto discutere. Bill Gates invece non è d'accordo. Ha detto: Apple dovrebbe collaborare perché qui non si tratta di tutti gli iPhone, si tratta di un particolare iPhone. This is a specific case where the government's asking for access to information. They're not asking for some general thing, they're asking for a particular case. Bill Gates ha parlato in un'intervista al Financial Times. A questo punto negli Stati Uniti, ma direi in tutto il mondo, si sono creati due grandi partiti. Quello della Silicon Valley, chiamiamolo così, Apple in primis, ma poi dietro ad Apple addirittura hanno promesso di scrivere una memoria per il tribunale, Facebook, Twitter, Microsoft, tutte d'accordo con Apple. Una cosa così non deve essere creata perché è come creare un passepartout per la polizia che potrebbe aprire qualsiasi chiave in tutto il mondo. Dall'altra parte, persone e personaggi come Bill Gates o anche molti politici americani e sostanzialmente metà dell'opinione pubblica americana. Io ne ho parlato con Matteo Flora, che è il fondatore di The Fool, una società che si occupa di reputazione sul web e di sicurezza, ed è un esperto di cyber security. Ora, innanzitutto non viene chiesto di creare un software, come dicono in giro tanti giornali, che rompe la cifratura del telefono. Viene richiesto di creare un software che faciliti la rottura dei codici d'accesso. Perché? Perché adesso il nuovo sistema operativo iOS 9 obbliga il sistema a 3 livelli di protezione. Il primo è il fatto che dopo 10 tentativi sbagliati il sistema cancella tutto il contenuto del telefono. Stiamo parlando di tentativi di accesso col PIN che lo usiamo tutti i giorni per bloccare il telefono. Esattamente sì. Dopo 10 tentativi errati il telefono si protegge cancellando i contenuti. Il secondo livello di protezione è il fatto che mano a mano che io sbaglio i tentativi viene inserito una temporizzazione che mi impedisce di fare centinaia e centinaia di tentativi immediatamente. E la terza barriera di protezione è il fatto che io devo usare il display e quindi devo avere un ditino meccanico o qualcosa che ci assomiglia per inserire. Questo per evitare, se ho capito bene, che uno attacchi il telefono, come si fa con altri sistemi, ad un software che prova ripetutamente decine, centinaia, migliaia di combinazioni e prima o poi lo si becca il PIN, giusto? Beh sì, lo si becca anche abbastanza velocemente se si rimane nelle 4 o 6 cifre. Si sta parlando comunque di ore, qualche decina di ore. Ora, questa cosa si chiama tra l'altro attacco di brute force, attacco in forza bruta. Provo tutte le password finché trovo quello. Ora, viene richiesto di creare un software che salti tutti questi meccanismi. Per la accezione da vocabolario di backdoor, la backdoor è un qualunque sistema che abbassa o neutralizza i sistemi di protezione che sono messi in atto. Quindi una cosa del genere diventa effettivamente una backdoor ed è un qualcosa di pericoloso. Perché è pericoloso? Perché una volta costruita, una volta realizzata, Apple non potrà in nessun modo dire a un'altra corte o alla medesima corte per un altro caso che non è in grado di dare il supporto, perché vi è evidenza pratica del fatto che lo ha creato ed esiste. Non solo, questo software da proteggere diventa molto complesso e quindi c'è la vera possibilità che venga utilizzato, che sfugga dal controllo di Apple. È già successo addirittura, forse ti ricorderai, con dei vecchi modelli, dei prototipi di iPhone che erano stati comunque fotografati in giro, che erano scappati al controllo. E c'è questa problematica non irrilevante. Quello che non vuole fare Tim Cook adesso è stabilire il precedente, quel precedente pericoloso, anche perché poi si troverebbe a dover rispondere a tutte le corti di mezzo mondo. E ricordiamoci che spesso la definizione di terrorista è una definizione liquida. Il terrorista è quello contro il governo che in quel momento è vigente, anche se eventualmente diversamente democratico. Quindi è corretto, e Tim Cook punta soprattutto su questo, dire che qui stiamo discutendo non tanto di quel telefono particolare, ma del futuro e di come noi come nazione, Stati Uniti, ma poi dagli Stati Uniti potremmo passare ad altre nazioni, ci confrontiamo con questo problema. Certamente è il problema del precedente. Apple non vuole un precedente che poi la vincoli almeno a dare quel livello di supporto, se non poi con un altro precedente, un'altra richiesta magari più elevato. E questo è sempre stato un meccanismo estremamente pericoloso. Allora, prima io ti ho domandato velocemente, tu hai sorriso, ha ragione Tim Cook o ha ragione Bill Gates? Beh, in questo caso allora Bill Gates che dice no, quella richiesta è su quel particolare telefono e Apple avrebbe tutte le tecnologie per collaborare con l'FBI affinché si entri su quel telefono. Allora ha ragione anche Bill Gates. La risposta è che l'unica risposta possibile è che hanno ragione entrambi, perché non sono delle visioni mutualmente esclusive. Se stiamo dicendo è possibile per Apple creare questo tipo di software, cioè hanno le competenze pratiche, tecnologiche per farlo, la risposta è assolutamente sì. Potrebbero creare un software che si limita a funzionare solo su quel device? Assolutamente sì, ma non è quello il discorso che fa Tim Cook. Tim Cook dice: una volta creato un software di questo tipo, non possiamo e non potremo mai più impedire, cioè opporci a un utilizzo di questo software per 10, 100, 1000, 1 milione di altri device. Certo, questo è il rischio. Ci sono altri sistemi che potrebbero essere utilizzati per entrare su quel telefono, perché vari esperti di sicurezza hanno detto ci penso io, oppure vi do io la soluzione, si fa così. Sì, allora, ci sono altre, è possibile che esistano altre possibilità. Una delle possibilità di cui si parla adesso tanto in giro per la rete è de-chipping, cioè togliere la memoria, togliere, non è diciamo che è una semplificazione, però togliere il chip che contiene in quel momento i dati, attaccarlo a un altro sistema, che a questo punto posso programmare per fare un centinaio di migliaia di operazioni. Perché? Perché in questo modo evado i controlli di tutto il pezzo di hardware che sta proteggendo l'iPhone da questo tipo di attacco. Beh, è possibile che ci siano, si narra che ci siano anche evidenze, era sicuramente possibile in altri modelli, altri dispositivi, e la stessa Apple faceva operazioni di questo tipo per i vecchi sistemi operativi. Queste considerazioni valgono anche per Android o altri sistemi operativi, Windows, eccetera? Perché no? Uno, perché Android è molto meno monolitico, si parla di frammentazione di Android. Perché? Perché ogni produttore genera dell'hardware diverso con semplicemente un sistema operativo. Diciamo che è più semplice per un device Android fare il routing, cioè diventare amministratore di sistema in barba a quelle che sono le protezioni, e infilare una ROM, un sistema operativo, un firmware creato apposta per inserirlo. Qui il problema dell'Apple è che, gestendo totalmente anche in hardware la possibilità di dover avere una firma digitale per poter lanciare qualunque tipo di software, gli unici in questo momento che possono creare questo software sono gli ingegneri di Apple, perché possono firmarlo digitalmente e farlo eseguire dalla macchina. Quindi dal punto di vista marketing fa anche molto gioco ad Apple sottolineare quello che tu hai appena detto, perché attualmente potrebbero dire, e di fatto lo stanno dicendo, il nostro è il sistema più sicuro. Sì, quello, c'è sicuramente una parte di questa componente. Fa anche marketing, ricordiamoci, tantissimo il fatto di ergersi a paladini della libertà della rete, indipendentemente dal fatto se poi magari, come tanti cospirazionisti dicono, guarda, è solo una manovra per pararsi la schiena quando diranno sì, in effetti te lo devo fare. Sì, ci sarà sicuramente una componente per cui un conto è accettare silenziosamente un ordine di un giudice che non puoi evadere, un conto è invece comunque tentare il tutto e per tutto di schierarti, anche da un punto di vista marketing, nella direzione di tutelare la riservatezza della tua infrastruttura. Senti, visto che i telefoni che noi abbiamo in tasca, tutti, un po' tutti, fanno in automatico, oppure dobbiamo essere noi a deciderlo, ma molto spesso un backup automatico in rete, si potrebbe, invece di entrare nel telefono, entrare nella nostra nuvola in rete, nei dati di backup? Beh, quello nei documenti che sono apparsi adesso è un'ipotesi che viene assolutamente caldeggiata da Apple. Non era possibile in questo caso perché il telefono non era collegato con iCloud, almeno da mesi, e oltretutto pare che qualche analista dell'FBI abbia fatto qualcosa di sbagliato, come cambiare il codice o richiedere il cambio del codice in iCloud, e quindi quella via è preclusa. Diciamo che sì, una delle vulnerabilità che scopriamo più grande è il fatto di avere il telefono collegato a sistemi di iCloud, perché una delle vie che ad esempio Apple aveva prospettato, se non fosse stato spento il cellulare, sarebbe stato quello di avviare una manovra di cambio del PIN direttamente da iCloud. Questo è sicuramente un tema estremamente interessante, molto importante. Adesso cambiamo argomento, parliamo di pagamenti in mobilità. Seguiamo sempre le novità che riguardano il pagamento mobile, così si dice. Ci sono tantissimi modi, tantissime modalità, tantissimi servizi. C'è veramente un ecosistema incredibilmente affollato. Questa settimana Vodafone ha presentato il nuovo Vodafone Pay. Che cos'è? Un sistema per virtualizzare la carta di credito sullo smartphone. Saluto Vincenzo Scarlato, che è il responsabile Consumer Services di Vodafone Italia. Benvenuto a 2024. Grazie. Allora, che cos'è e come funziona questo Vodafone Pay? Noi abbiamo puntato su due cose: semplicità e sicurezza. Semplicità perché crediamo che per vincere la battaglia contro il contante il servizio deve essere il più semplice possibile. Quindi prendere il proprio smartphone, che sempre più spesso è già in mano, e avvicinarlo al POS. Sì. Niente più semplice di quello, niente app da aprire, niente altre verifiche da fare. Sì, stiamo parlando dei POS cosiddetti contactless, cioè quei POS che riescono a leggere le carte col chip interno, con l'NFC interno. Assolutamente, sono tutti i POS di nuova generazione, sono già 500.000 in giro per l'Italia. Quindi insomma, e quante carte ci sono in giro per l'Italia? Le carte contactless in giro per l'Italia sono già 20 milioni, quindi è un numero assolutamente rilevante, diciamo che tutte le nuove carte sono contactless. In altri paesi europei sono ormai diventati lo standard anche di utilizzo. Benissimo. Classico. Allora, per utilizzare Vodafone Pay e per utilizzare questo sistema di pagamento, allora, è necessario avere uno smartphone. Un smartphone NFC? Quindi Android. Android. Perfetto. È necessario avere un piano dati, immagino, perché ci sarà un po' di traffico di dati, giusto? Certamente. Perfetto. È un'app, basta avere un'app che si chiama Vodafone Wallet. Perfetto. Si scarica normalmente dallo store e poi si attiva il pagamento. Perfetto. E bisogna avere una carta di credito. Certamente. Qualsiasi carta di credito, la gran parte delle carte prepagate, Visa e Mastercard. Perfetto. Allora, questi sono gli ingredienti di partenza. Cosa devo fare? L'ultimo ingrediente è la SIM NFC. Ah, ecco, sì. Perché la sicurezza della soluzione è basata sulla SIM. I dati sensibili non viaggiano nel cloud, non vengono registrati sul dispositivo, ma stanno nell'elemento sicuro della SIM. Perfetto. A questo punto che cosa faccio? Si scarica l'app Vodafone Wallet dal Play Store, come qualsiasi altra app. Si inseriscono i dati della carta di credito o più semplicemente si fa una foto alla carta di credito e automaticamente viene rilevato il numero della carta di credito. Si inserisce tipicamente la password, quella che si inserisce anche per gli acquisti online, oppure nel caso non si ricordi la password c'è una procedura automatica di invio di una password e a quel punto si è attivi. Il pagamento, come dicevo prima, si avvicina lo smartphone al POS senza nessun'altra complicazione. Perfetto. Se l'ammontare da pagare è superiore a 25 euro si dovrà inserire il PIN sul POS. Il PIN della carta. Il PIN viene, in realtà anche qui abbiamo pensato a un'innovazione. Il PIN lo sceglie il cliente. Quindi, vabbè, per semplicità uno magari sceglie quello della carta di credito. Può scegliere quello della carta di credito. Sì. È utile anche ricordare che si possono inserire nello smartphone più di una carta di credito. Quindi sono una prepagata e una carta di credito, si possono entrambi mettere nello smartphone, definire qual è che funziona di default e scegliere quello con cui pagare. Il PIN, ancora una volta, è a scelta del cliente. Vuole avere lo stesso PIN per le due carte? Benissimo. Oppure vuole tenere il PIN che sia lo stesso della carta di plastica? Allo stesso modo, certo, può fare. Oppure lo stesso del telefono. Insomma, o lo stesso del decide telefono, quello che vuole. Sceglie. Senti, costa qualcosa? È inclusa in tutti i piani dati di Vodafone. Quindi basta avere il piano dati, che poi è uno degli ingredienti che abbiamo detto è necessario. Esattamente. E questo punto è come che io avessi la carta di credito nello smartphone, cioè lo smartphone è la mia carta di credito. Assolutamente sì. Ma secondo voi qual è il vero vantaggio di questo servizio? Perché uno a questo punto potrebbe dire, ma io in tasca ho normalmente il portafogli e lo smartphone, quindi non mi costa tanta fatica estrarre la carta di credito, metterla sul POS e pagare, no? Qual è il vantaggio secondo voi? Certo, ce ne sono due. Principale. Allora, il primo è che in questo caso posso anche lasciare a casa la carta di credito. Difficilmente lo smartphone lo lascio a casa. Anche quando si va a correre, per chi va a correre, non è il mio caso, si va a correre con lo smartphone per ascoltare la musica, per ricevere le chiamate. Molti nostri ascoltatori ascoltano 2024 mentre fanno sport, ad esempio. Ma la carta di credito è difficile che io me la porti. Sì. Quindi questo è, diciamo, il caso d'uso più normale. Quello però che io credo sia quello che cambierà l'abitudine è che sempre di più lo smartphone è andato a sostituire tanti servizi che normalmente facevamo in altro modo. No, lo smartphone ha sostituito l'orologio, ha sostituito il vecchio Walkman, tutto quello che serviva per la musica, tutto quello che serviva per comunicare. Quindi sempre di più è un'estensione del braccio. È un'estensione del braccio e il braccio è tipicamente anche quello che paga. Sì, tra l'altro proprio in questi giorni viene citato spesso una sentenza di un giudice americano che diceva: se qualcuno venisse da Marte potrebbe interpretare lo smartphone come una parte del corpo, perché tutti se lo tengono spesso in mano, ce l'hanno sempre attaccato. Sono perfettamente d'accordo. E se uno ci pensa, l'unica cosa che manca è proprio il fatto di pagare. Quando noi siamo andati a chiederlo ai clienti, i clienti ci dicevano: ma effettivamente è strano, com'è che con lo smartphone non si può pagare? È uno dei servizi che viene considerato più normale come estensione dello smartphone stesso. Ma visto che non costa niente, voi che cosa ci guadagnate? Noi crediamo che sia importante costruire sempre una maggiore quantità di servizi per i nostri clienti, in questo caso anche prima che arrivino non solo da concorrenti, come normale sia nella sana dinamica competizione, ma in questo caso anche rispetto alle grandi società americane che tanto spesso ci fanno aspettare qui in Italia per i loro servizi. Quindi noi avevamo un'opportunità di costruire senza servizio. Citare nulla, non cito nulla assolutamente. Però uno si immagina di che cosa stiamo parlando. Devo dire, molto spesso qui in Italia abbiamo un atteggiamento spesso un po' troppo passivo. Aspettiamo i nuovi servizi che ci vengano quando entrano i piani strategici. Visto che voi siete una compagnia internazionale, questo è un servizio che è già attivo in altri paesi o no? In questo caso abbiamo lanciato in Spagna e in Italia siamo il secondo paese, quindi siamo molto contenti. Siamo di abbastanza averlo portato. Bravi, no? Sì, molto. Sì, perché bene. Ricordiamo che non tutte le aziende internazionali, però molte aziende internazionali nei mercati locali, e tipicamente succede in Italia, che è un mercato insomma, di 60 milioni di persone, molto importante, operano alcune cose in modo indipendente, giusto? Sì, certo, a seconda delle varie strategie ci sono poi specificità dei mercati locali che richiedono adattamenti. Tu hai parlato di sicurezza. Che tipo di problemi ci potrebbero essere? Che cosa avete previsto che possa succedere? Allora, quando si parla di pagamenti, la preoccupazione numero uno, giustamente, di qualsiasi persona è la sicurezza. Quindi, come spiegavo prima, la sicurezza noi la interpretiamo con la sicurezza della SIM, che quindi è uno degli strumenti che... dico per scaramanzia, finora non è mai stato violato né attaccato. Quindi la sicurezza per noi è importante dal punto di vista dell'elemento sicuro di tutti i dati della transazione. Poi dal punto di vista della sicurezza, immagino che me lo chiederai subito dopo, è il famoso tema che è diventato virale in questi ultimi tempi del famoso POS portatile che viene avvicinato alle carte contactless. Adesso te lo chiedo allora. Se io ho un POS, è esperienza di molti, uno va al ristorante, ci sono i POS wireless, che quindi il cameriere ti porta al tavolo senza fili. Io questo POS, visto che è collegato alla rete di telefonia mobile, potrei portarmelo anche sull'autobus, su un mezzo, che ne so, in una piazza piena di persone che stanno per assistere ad un concerto. E magari uno è distratto dal gruppo che già comincia a suonare. Se io avvicino quel POS al mio portafogli alla mia tasca dove c'è lo smartphone, che succede? Che faccio un pagamento? Sapevo appunto senza che me l'avresti chiesto. Allora, nella stessa piazza e nello stesso autobus purtroppo il borseggio avviene. Oggi avviene con una normale mano, una mano che viene inserita in tasca, che viene inserita nella borsa. In questo caso stiamo dicendo che invece di avere una semplice mano che viene inserita, c'è un oggetto in questa mano, quindi comunque molto più visibile e molto più intrusivo. Cioè devi inserire in una borsa non solo la mia mano per estrarre il portafoglio, ma per inserire questo POS. Quindi tecnicamente è corretto. Dall'altra parte però è molto più complicato di un normale borseggio. Sì. In più il POS è registrato. Non dimentichiamoci che tutto quello che viene fatto sottratto fraudolentemente non è tracciato, in questo caso è una transazione. Poi tracciata. Io sono un grande sostenitore dei pagamenti mobili e continuo a dire pagamenti in generale elettronici, poiché siano mobili o no, insomma, continuo a dire che sono molto più sicuri dei soldi, perché i soldi una volta che ce li hanno rubati... Sì, possiamo fare la denuncia, ma insomma recuperarli è complicato. Sì, volevo aggiungere anche una cosa. In questo caso, nella soluzione che abbiamo definito con lo smartphone, quindi con Vodafone Pay, il cliente che vuole essere strasicuro, quindi rinunciando a qualche elemento di semplicità in favore di una maggiore sicurezza in questi casi d'uso, può anche definire una modalità manuale. E quindi il pagamento dallo smartphone tutte le volte va solo se viene autorizzato da Sì, poi io dico che chi si preoccupa di queste cose è un po' come se si preoccupasse, cioè non andasse in automobile perché ci sono gli incidenti. Ma nessuno pensa, ci sarà forse uno in Italia che dice no, non vado in automobile che ci potrebbe essere un incidente. È la stessa cosa. Perfettamente d'accordo, se uno guarda le statistiche i numeri sono... Senti, state già cominciando a pensare, visto che tu hai citato la SIM NFC, che è uno degli ingredienti importanti, visto che si sta cominciando a parlare anche il Mobile World Congress, hanno annunciato l'arrivo della eSIM, cioè di una SIM integrata nel terminale, che può essere un telefono o un altro tipo di oggetti. Sarà un'evoluzione o siamo ancora agli inizi, quindi ci penserete quando ci sarà il problema? No, è un'evoluzione che non è neanche troppo lontana. E è particolarmente importante anche per gli smartphone, ma soprattutto per gli oggetti connessi. Quindi sono gli oggetti di piccole dimensioni che, avendo piccole quindi dimensioni, gli smartwatch ad esempio, smartwatch o sì, gli oggetti che stanno in casa o fuori casa. Quindi tutti questi oggetti hanno dimensioni limitate, quindi anche il risparmio dello spazio fisico della SIM conta. Sì, sì. Chi ha un telefono aziendale, cioè una SIM aziendale, un contratto aziendale, può utilizzarlo con la propria carta di credito? Certo, magari con la carta di credito dell'azienda sarebbe più divertente, però. Allora, sicuramente se è un cliente Vodafone, sì, può utilizzare il servizio anche se aziendale. È necessario avere la SIM NFC. Quindi bisogna fare riferimento al referente aziendale, nel caso non si avesse questa SIM NFC, per farlo funzionare. Sì. Per i clienti invece consumer è sufficiente andare in qualsiasi negozio Vodafone e chiedere una sostituzione della SIM. Sì. Le nuove SIM sono tutte NFC? Le nuove SIM che distribuiamo sono NFC. Sì. E comunque anche il telefono deve avere integrato l'NFC? Sì, deve essere un telefono compatibile. Sì. Quindi stiamo parlando di telefoni Android, chiaramente con la tecnologia NFC, e per requisiti di sicurezza c'è una verifica, quindi non sono il 100% dei telefoni, ma i telefoni tendenzialmente più recenti, ma comunque molto ampia la gamma. È impensabile che questo possa essere attivato su Apple, su iPhone? Apple ha la sua strategia, quindi non lo farebbe mai, non l'aprirebbe mai. Come facevo riferimento prima, bisogna aspettare le strategie, diciamo, di diffusione nel mondo di Apple. Diciamo, non è impossibile, ma è molto improbabile. Diciamo che non dipende da noi. Non dipende, questa è una buona risposta, molto diplomatica. Senti, uno non deve avere nessun tipo di rapporto con la carta di credito, cioè uno ha la propria carta di credito con il proprio canale, se attiva questo servizio non deve dire nulla alla società della carta di credito, giusto? Corretto. Quindi può farlo tranquillamente senza nessun problema. E questo è uno degli elementi di semplicità che abbiamo introdotto. Sì. E quindi il cliente può caricare qualsiasi carta di credito, Visa, Mastercard, e la maggior parte delle prepagate. Dico maggior parte delle prepagate perché ci sono delle prepagate che sono tipo usa e getta, non nominative, quindi quelle chiaramente per motivi puramente di sicurezza non possono essere caricate. Ti faccio un'ultima domanda. Quando io pago, metto il telefono sul POS, sì, e sentirò un suono, sì, e a quel punto che cosa vedo? Vedo quello che ho pagato, posso poi vedere tutto lo storico dei pagamenti? Giustissimo, è molto importante perché a differenza di una carta, in questo caso arriva la notifica sul cellulare dell'importo che si è pagato, quindi c'è una massima trasparenza di quello che si sta pagando. Ovviamente sullo smartphone è disponibile anche tutto il resoconto degli acquisti effettuati con il loro ammontare. Molto bene, io ringrazio Vincenzo Scarlato, buon lavoro, a presto. Grazie. Oh, una cosa che non abbiamo detto, ma che molti ascoltatori hanno già chiesto o potreste chiedere, il sistema funziona anche con il telefono spento. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast, in questo modo avrete sul vostro smartphone ad esempio, ma anche sul vostro computer, sul terminale che preferite, la nostra puntata aggiornata settimana dopo settimana, il nostro file MP3. Questa settimana c'è stato il Mobile World Congress a Barcellona, alcune novità non eclatanti, è sempre una fiera molto interessante, si possono fare incontri molto interessanti. Ne parliamo con Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, parlando di terminali, non ci sono state tantissime novità, qualcosa di interessante c'è stato prima che iniziasse la fiera? Sì, prima che iniziasse la fiera i grandi annunci erano già stati dati, perché il giorno prima ci sono stati un paio di conferenze stampa decisive, tipicamente quelle di Samsung è sempre così, e di LG. Esatto. Alle fiere le conferenze stampa spesso le notizie arrivano il giorno prima. poi alla fiera ci si incontra, ci si vede, che è la cosa più interessante forse. Comunque, novità principali? Beh, allora, Apple non c'è a questo evento, come non partecipa normalmente alle fiere, quindi novità sul fronte Android di sicuro, e con il leader di questo mercato che è Samsung, che ha rilanciato la serie Galaxy S con il nuovo modello S7 nelle due versioni, normale S7 Edge, quindi quello con lo schermo curvo ai due lati, e LG con il G5, quindi sul nuovo top di gamma. LG non è così importante per il mercato della telefonia come Samsung, ma l'annuncio è molto importante perché ci sono stati degli elementi di novità interessanti, anzi proprio da lì è partita LG, proprio dal fatto che, dalla consapevolezza esplicitata diciamo per la prima volta in una conferenza stampa, che il mondo smartphone da qualche tempo non fa più dire wow. Perché? Perché le novità sono novità normalmente incrementali rispetto a quello che abbiamo già visto prima, sono un aumento di potenza, nuovi sensori non sempre utilissimi, nuove funzionalità per un utilizzo non completo, non compare una nuova tecnologia di batterie che sarebbe quello che tutti vorrebbero. Esatto, esatto. E quindi insomma sono interessanti aggiornamenti, poi a molti appassionati piace avere comunque l'ultimo modello, ma niente di rivoluzionario. Sì, infatti c'è chi ha detto le novità che sono state presentate quest'anno in modo particolare riguardano e potrebbero interessare soprattutto chi ha modelli vecchi, non chi ha modelli dell'ultima generazione o anche della penultima generazione, perché le novità non sono tantissime. Beh, questo è comune a quello che accade un po' nelle ultime stagioni, cioè quello che abbiamo visto è che oramai il passo di sostituzione di un telefono è quantomeno biennale, quindi normalmente si salta una generazione perché la generazione subito successiva al telefono che si possiede non introduce quasi mai delle novità decisive. LG ha provato a scompaginare un po' le carte, come offrendo un telefono, questo G5, che ha la caratteristica unibody, quindi di avere il telaio in metallo in un pezzo solo, quindi non con la scocca che si apre, quindi come è già iPhone da sempre e come è diventato il Galaxy con la versione S6, però con una caratteristica che né iPhone né Galaxy hanno, che è quello della batteria removibile, che è una richiesta che gli utenti sia Apple che Samsung hanno fatto. Diciamo che fino adesso queste due cose non andavano d'accordo, cioè avere un corpo unico di metallo non andava d'accordo con la batteria rimovibile, e i telefoni che avevano o hanno la batteria rimovibile normalmente hanno il retro di plastica e a livello di design non è bellissimo. Sì, beh, poi anche la classica scena che si vede quando cade lo smartphone e si separa normalmente in tre pezzi, quindi la parte principale col display, la batteria da una parte e la custodia posteriore, cioè quindi il coperchio posteriore dall'altra. In questo caso in realtà lo stratagemma è stato fatto facendo il fondello, quindi la parte bassa del telefono, proprio il profilo basso, rimovibile, apribile. Attraverso questo si sfila come fosse un cassetto una generosa batteria, come fosse una cartuccia. Questo stratagemma è stato utilizzato non solo per rendere la batteria sostituibile, che è sicuramente una feature richiesta, una funzionalità richiesta, ma anche per usare questa stessa parte removibile per inserire alcuni accessori. Per esempio, una batteria potenziata con un grip per utilizzare lo smartphone come macchina fotografica, quindi il fatto di avere una batteria un po' più grande e anche un'impugnatura, proprio nello spessore dell'impugnatura c'è la parte aggiuntiva della batteria che passa da 2007 a 4000 mAh, quindi quasi raddoppia. Oppure un altro accessorio come uno speaker un po' più generoso, non si pensi a nulla di vicino all'alta fedeltà, però più generoso di quello integrato, progettato in collaborazione con Bang & Olufsen, praticamente sostituendo soltanto questa parte removibile, lasciando la batteria che già si ha, si può avere uno speaker un pochino più generoso. E poi così via, LG è andata avanti sul tema degli accessori che chiama Friends, agli amici del telefono. Da attaccare al telefono, da accoppiare al telefono. Più o meno attaccare o accoppiare, alcuni devo dire francamente interessanti. Ecco, e su questo fronte il tema è quello del gioco, del divertimento, cioè lo smartphone deve stupire, deve divertire, e con questi accessori LG effettivamente promette di farlo. L'unico dubbio che ci resta è acquistare il telefono più uno, due, tre di questi accessori probabilmente porta i prezzi molto in alto, ma non possiamo parlare prima di conoscere tutti i prezzi, quindi certo, vedremo poi come si comporterà. Sì, anche perché poi ricordiamo che questi accessori sono per quel particolare telefono. Posso immaginare che in futuro escono altri telefoni compatibili, però non è che possiamo poi... Sì, non necessariamente, perché per esempio la foto, video fotocamera a 360 gradi che permette di catturare immagini in realtà virtuale è una fotocamera esterna, sì, con la sua memoria, che può essere accoppiata anche ad altro. Cosa interessante, e chiudo su questo telefono, comunque, è il fatto di avere due fotocamere, non solo quella frontale e quella posteriore, se contiamo anche quella frontale sì, appunto, ce ne ha tre. In realtà risolve il problema annoso degli smartphone che non possono avere per profondità uno zoom, non ci sta meccanicamente, quindi per fare foto molto grandangolari e foto anche meno grandangolari ci sono due fotocamere, una molto grandangolare con un angolo inquadrato di 135 gradi, quindi più del campo molto visivo umano, ampio, tanto per intenderci, e una da 8 megapixel e una da 16 megapixel, che permette quindi, avendo una risoluzione più alta, anche di fare un po' di zoom digitale senza un grande decremento della qualità. In questo modo si ovvia alla mancata versatilità fotografica degli smartphone. Samsung non ha presentato grandi novità, ha fatto un piccolo upgrade. Samsung ha fatto un upgrade sì, non decisivo, diciamo così, ha migliorato la fotocamera, questa è una cosa importante proprio perché oramai questi apparecchi hanno sostituito le macchine fotografiche, almeno fino alle reflex, tutte le compatte sicuramente. L'ha migliorata come, e questo deve far pensare, riducendo i megapixel. Cioè, la corsa ai megapixel, noi l'abbiamo sempre detto a questi microfoni, è una corsa sterile, perché più aumentiamo i megapixel, più le performance, a parità di dimensione di sensore, le performance fotografiche precipitano, perché il pixel è più piccolo, cattura meno luce, è meno sensibile, introduce più rumore, eccetera, eccetera. Per migliorare ulteriormente la già buona fotocamera del Galaxy S6, Samsung ha ridotto a 12 megapixel la risoluzione, ma è arrivata a un'apertura di f1,7. Gli appassionati di fotografia sanno cosa vuol dire, per tutti gli altri significa semplicemente poter catturare con una qualità eccellente immagini anche in condizioni di luminosità veramente molto molto basse, e in più giocare anche un po' meglio sulla profondità di campo, cosa che normalmente gli smartphone non permettono di fare. Sì. L'altra novità è che di fatto è stato riunito, l'S6 era uscito in tre versioni in realtà nel tempo, l'S6 normale, l'S6 Edge con i bordi curvati, il display curvato sui bordi, e il S6 Edge Plus, che era un pochino più grande. In questo caso sono usciti soltanto due modelli, l'S7 normale da 5,1 pollici e l'S7 Edge da 5,5 pollici, quindi l'Edge è un pochino più grande e invece l'S7 normale è più piccolo. Finitura metallica molto bella e alcuni miglioramenti di software. Un miglioramento importante, che in realtà ha introdotto anche LG nel suo G5, è la possibilità di avere il display sempre attivo. Cosa vuol dire? Una piccola parte, una porzione, una fetta dello schermo può rimanere, se configurato così, sempre attivo con le l'ora normalmente, sì, e le notifiche. E quindi non c'è bisogno di continuare a accendere e spegnere il telefono. Questo lo fa con una luminosità ridotta su una porzione piccola dello schermo e consuma pochissimo, e consuma quindi pochissimo, diciamo che poi si faranno le prove, sì, faremo le prove, però più o meno si dice che il consumo per 12 ore di questa funzione attivata sia di circa il 10% della batteria, quindi qualcosa di tollerabile. La batteria dell'S7 poi è stata migliorata rispetto a quella dell'S6, potenziata, e poi sono stati fatti alcuni miglioramenti proprio del software e sistema operativo, che ecco, è l'ultima versione di Android. Quello che ha colpito della conferenza stampa di Samsung è invece un altro tema del quale abbiamo già parlato, perché se ne è parlato soprattutto a Las Vegas, ci sono stati grandi annunci, anche a Barcellona c'è stato l'annuncio dell'arrivo del Vive di HTC, e stiamo parlando di realtà virtuale. Sembra quasi che l'euforia stia salendo alle stelle, forse esagerando un po'. Sicuramente esagerando un po', ma è un po' la mania del momento, e quindi assecondiamola, cioè noi siamo tecnoentusiasti per definizione, quindi poi i limiti anche di applicabilità della tecnologia li vedremo strada facendo. È il caschetto che si può indossare e ci permette di vedere un'immagine stereoscopica, quindi 3D, e un'immagine che è coerente con i movimenti che facciamo, quindi se ci svoltiamo verso destra tutto lo scenario si volta verso destra. Una realtà virtuale. Allora ricordiamo che i due grossi annunci delle ultime settimane sono da una parte Oculus di Facebook e dall'altra parte anche del mondo, perché sta a Taiwan, HTC con il Vive. Usciranno in primavera, si possono già preordinare, diciamo Vive tra poco, ma comunque si possono di fatto preordinare. Arriveranno, questi sono caschetti con tutto, tutta la tecnologia e lo schermo integrato. Samsung già da tempo si è impegnata con un visore che ha tutta la parte ottica prodotta da Oculus, progettata da Oculus, esatto. Sì, certo, quindi in licenza da Oculus, esatto, e il display non esiste perché è il telefono che si infila dentro. Sì, questo dà anche un vantaggio, cioè, certo. Il vantaggio è che è totalmente wireless, cioè si infila il telefono, non deve avere i cavi, e a quel punto, a meno che uno non debba starci per molto tempo e quindi ha bisogno dell'alimentazione, ma se va a batteria può farlo anche liberamente. Ecco, Samsung ha fatto questo evento colossale di presentazione dell'S7 con 5.000 persone, 5.000 posti, ognuno dei quali, anche la nostra sede, aveva un di questi visori già pronto, predisposto, con un telefono quindi all'interno, per vedere la scena proprio dell'arrivo dell'S7 in realtà virtuale, e poi per vedere un'altra scena molto coinvolgente. Guardando questa scena molto coinvolgente, nessuno dei 5.000, o soltanto quelli che non avevano ubbidito all'invito di mettersi il visore, hanno visto che in mezzo a queste ali di persone apparentemente ciechi, che poi in realtà virtuale si fanno questi movimenti che visti da fuori fanno un po' ridere, sembrano quelli di Stevie Wonder, tanto per intenderci. Ecco, in mezzo a queste due ali di persone passava Mark Zuckerberg, assolutamente non visto da nessuno, che ha fatto un grande intervento di entusiasmo totale sulla realtà virtuale. Va detto, non è stato detto a sufficienza, a mio avviso, che Mark Zuckerberg non è un terzo osservatore che ci può dare disinteressato, certo. Perché essendo presidente, amministratore delegato e azionista di Facebook, che è proprietario di Oculus, che è il principale player sul fronte della realtà virtuale, nonché partner di Samsung nell'operazione Gear VR, ha ovviamente tutti gli interessi a dire che quello che ha detto, cioè che il nostro futuro passerà moltissimo per la realtà virtuale, non soltanto per il gaming, che è un ambito dove già si sa che questo sarà importante, ma anche per tutte le comunicazioni, per la socialità, per Facebook e per il modo con cui anche banalmente ci parleremo, fatemi dire, ci telefoneremo. Ecco, l'evoluzione dalla chiamata alla videochiamata, adesso si passa a appoggiare in una stanza una videocamera a 360 gradi e permettere al nostro interlocutore di navigare la stanza nella quale siamo, di vedere tutto quello che succede anche a fianco. Io personalmente qualche riserva ce l'ho, qualche punto interrogativo ce l'ho. Però devo dire la verità, i sistemi, devo dire soprattutto Vive di HTC, che ha una qualità incredibile, sono talmente coinvolgenti che ho seri dubbi sulla capacità soprattutto dei giovani di resistere dal giocare ore e ore con tutto quello che però ne può conseguire. Quando accendiamo la PlayStation oggi, o quando mettiamo un DVD, un Blu-ray 3D, leggiamo una importante avvertenza che dice che l'uso prolungato può creare epilessia. E stiamo parlando di una console normale. Pensa un po' cosa succede. Quel tipo di coinvolgimento, oltre a dare fastidio di stomaco a qualcuno, può anche causare, voglio dire, delle coinvolgimenti così profondi gli cui effetti ancora sono tutti da sperimentare. Su questo vorrei farti una domanda, perché io ho passato una mattinata quasi a provare sia Oculus, il Rift, sia HTC Vive, quelli che usciranno sul mercato tra poco. Allora, confermo che il coinvolgimento è veramente incredibile, fantastico, meraviglioso, cioè ti stupisci proprio di quello. Probabilmente bisognerà lavorare nei prossimi mesi, anni, sulla definizione, perché stiamo ancora parlando di strumenti che non hanno una definizione. Non c'è ancora l'alta definizione. Sì, perché devono quei display che sono in alta definizione, ma devono riempire tutto il campo visivo. E riempire tutto il campo visivo vuol dire spalmare questi pixel su una superficie, su un angolo talmente ampio che Vedono i pixel. Si vedono. Quindi quello sicuramente sarà un elemento. Però devo dire, appunto, molto molto coinvolgenti entrambe. Io quella mattina, non dico che sono stato male, però l'ho detto anche recentemente in trasmissione, la realtà è talmente virtuale, talmente vera, la realtà virtuale, talmente coinvolgente, che è un po' come quando scendi dalle montagne russe, che è un po' di giramento di testa, un po' di insomma, qualche fastidio te lo dà, e nel corso della giornata. Questo è un elemento che forse non potrà essere cancellato. Beh, non credo che possa essere cancellato, soprattutto per chi è magari come te un pochino più sensibile di altri. Ecco, questo, io non sto male né in aereo né in nave. Lo so, però, né in macchina. Ecco, però l'aereo e la nave sono l'effetto perfettamente contrario. Cioè, sul tuo corpo ci sono delle accelerazioni, ma se sei in cabina o se sei sotto coperta per le navi, non vedi l'orizzonte che si muove, non vedi i movimenti, quindi c'è questa distonia tra quello che vedono gli occhi e quello che sente il tuo fisico, che crea questa sensazione di nausea. Qui è il perfetto contrario: noi abbiamo una realtà che sembra vera, appunto, una realtà virtuale che sembra vera, ma solo per gli occhi e non per le accelerazioni che abbiamo sul corpo. Questo può creare un fastidio che, a detta di coloro che l'hanno provato, che hanno provato fastidio, perché io per esempio non l'ho usato per ore, però questo fastidio non ce l'ho avuto, però chi ha provato questo fastidio dice che è un fastidio abbastanza persistente, cioè non va via pochi minuti dopo aver finito il cimento con la realtà virtuale. Confermo. Sì, ecco, sì. E quindi questo apre un altro tema importante. Forse non è un caso, dico solo forse perché non ho certezza, che sia a Las Vegas che a Barcellona Samsung ha fatto delle grandissime dimostrazioni molto spettacolari di realtà virtuale per il pubblico, facendo sedere queste persone su delle batterie di sedie pneumatiche, cioè con tutto il movimento, sì, in modo tale che il movimento che veniva simulato nella realtà virtuale venisse replicato anche nel mondo fisico. Questo sicuramente, oltre a dare sensazioni ancora più complete, diminuisce di molto il senso di nausea. Sì. Per concludere, diciamo, perché poi sennò giustamente qualcuno ci scrive e ci puntualizza, diciamo che HTC Vive ha due sensori e ci permette di stare in piedi e fare qualche movimento, magari attutendo questo effetto, però sì, beh, ci non sono tanti movimenti, perché mica puoi correre. Anche no? Perché non vedendo la realtà vera fuori si va a sbattere contro il muro. Vedi, cioè, il sistema ti dice che c'è un muro, sì, perché appare sì, una no, linea, certo, però non è precisamente sì. La stessa cosa. Sì, sì. Va detto che per tutti gli utilizzi cosiddetti posizionali, quindi quelli dove i giochi dove non ci si muove nello spazio, questo effetto non c'è, cioè ci si può voltare ma non si hanno, però invece dove si vola, dove si corre, dove si cammina, e ovviamente io sono andato sull'Everest, figurati, sull'Everest lì certo un po' di vertigine anche poi il vantaggio è che non fai molta fatica, cioè non fai fatica, no, proprio. Molto bene, io ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi, a presto, ciao. Grazie mille. Allora, secondo me ci sono state altre 2, 3, 4 novità che possiamo raccogliere dal Mobile World Congress, interessanti, soprattutto interessanti per gli scenari che possono verificarsi nei prossimi anni. Allora, la prima è la eSIM, la SIM integrata, sono state presentate le specifiche dalla GSMA, quindi l'associazione che raggruppa l'industria della mobilità. Ne parliamo con Sergio Cozzolino, che è il responsabile del progetto eSIM Ecosystem di TIM. Benvenuto a 2024, Cozzolino. Grazie. Cos'è questa novità? Una SIM integrata, ci può dire qualche cosa in più? Sì, infatti è un SIM che nasce integrato all'interno del dispositivo. Nativamente non è nulla di nuovo, nel senso che è stata già adottata per il mondo machine to machine negli scorsi anni, e lo scorso anno quello che si è provato a fare è a definire un nuovo standard per la personalizzazione remota di queste embedded SIM. Quindi la possibilità di fare un download di un profilo, di una subscription, di un abbonamento all'interno di questo modulo senza la necessità di consegnare fisicamente la SIM. Quindi di fatto cambia anche un po' la user experience: il cliente si troverà la SIM embedded all'interno del suo dispositivo e gli verrà attivato la subscription da remoto. Quindi lo sforzo che è stato fatto, l'annuncio cui si riferiva relativamente alla GSMA, è alla formalizzazione delle specifiche per la gestione da remoto delle subscription. Questo era stato già fatto lo scorso anno per il mondo machine to machine, ora è stato fatto in una versione 1.0 per il mondo dei wearable in questa fase, e nel corso del 2016 verrà estesa una versione 2.0 e relative successive per il mondo anche degli smartphone. Quindi si va verso un ampliamento di quello che è l'utilizzo del embedded SIM nei diversi contesti. Quindi possiamo pensare che entro la fine dell'anno, comunque il prossimo anno, ci saranno anche smartphone con questa SIM integrata. Esatto, quindi ci sarà la possibilità di avere anche degli smartphone veri e propri che possono disporre di questa SIM integrata. Senta, l'unica differenza delle specifiche, giusto per dare una differenziazione tra quella attuale e quella futura, è che ad oggi nei wearable, quindi praticamente l'annuncio che è stato fatto è per un watch, c'è la possibilità di gestire un unico profilo, quindi ci sarà un unico profilo, un'unica subscription. Per gli smartphone in futuro ci sarà la possibilità di avere anche più subscription, di cui una sola alla volta attiva. Quindi come oggi il cliente porta con sé diverse SIM e le inserisce all'uopo nel dispositivo a seconda del suo interesse e della sua convenienza, così domani potrà avere su questa embedded SIM, questa SIM integrata, potrà avere più subscription. Sì, più abbonamenti all'operatore, è tutto gestito tramite app? Tutto tramite la rete viene scaricato il profilo, e poi a quel punto è come se fosse una SIM fisica a tutti gli effetti, con la subscription e i dati dell'operatore. Sì, ma se io voglio cambiare, diciamo, SIM, magari perché ho un altro profilo con lo stesso operatore? C'è un client a bordo del dispositivo che consente appunto di disabilitare il vecchio profilo e abilitare il nuovo, e quindi anche eventualmente cancellarlo, sostituirlo, abilitarne uno nuovo. Quindi c'è una sorta di user interface che consente al cliente la gestione della sottoscrizione in locale, sì. Così come oggi fa con le diverse SIM. Sì. Senta, quali sono i vantaggi principali, e quindi anche che scenari si possono aprire? Beh, i vantaggi principali dipende da quale prospettiva. Partiamo dal cliente finale, che è quello più importante. C'è la possibilità, come dicevamo prima, di gestire più subscription, la possibilità di avere potenzialmente anche in scenari di roaming una subscription locale, quindi trascorro un periodo all'estero per vacanza, per studio, per lavoro, in quel caso posso attivare temporaneamente una subscription dell'operatore locale. L'altro grosso vantaggio in tutto questo è che queste operazioni possono essere fatte direttamente da dispositivo, quindi c'è comunque il vincolo dell'identificazione del cliente per effetto della normativa antiterrorismo, questo continua a sussistere, però una volta che il cliente ha abilitato la propria sottoscrizione può tranquillamente spostarla su un altro dispositivo direttamente tramite l'applicazione che è presente sul dispositivo. Quindi quando cambio telefono posso farlo senza tornare al negozio? Assolutamente sì, in locale, così come oggi sfilo la SIM e la inserisco in un nuovo terminale, così domani potrò fare la stessa operazione da telefonino. Sì. Per quanto riguarda gli operatori, i vantaggi principali sono legati alla possibilità di gestione remota delle subscription, prevalentemente per tutto il mondo machine to machine. Immaginiamo una SIM che oggi viene inserita all'interno di un modulo dati in un'autovettura, qualora appunto dovesse essere richiamata per manutenzione o smarrimento, furto o quant'altro, implica dei costi logistici non banali. In quel caso può essere telegestito da remoto. Certo, e comunque in generale per voi è un vantaggio perché non dovete più gestire la distribuzione delle SIM. Adesso ci vorrà qualche anno, immagino, non è che è una cosa istantanea. Sì, lo swap, il cambio non avverrà d'amblè, ma ci sarà appunto un periodo temporale in cui le due tecnologie continueranno a sopravvivere sul mercato. Non è neanche così immediato che, che i clienti appunto e i terminali siano tutti pronti d'amblè nel momento in cui le specifiche saranno congelate, quindi ci sarà un periodo di transizione che comporterà comunque la gestione di entrambe le modalità. Certo, però possiamo immaginare che già quest'altro anno si vedrà qualche cosa, o secondo lei saranno molto pochi i modelli? All'inizio qualche manifatturiera, ci sono delle manifatturiere che stanno contribuendo in maniera attiva alla parte di specifiche di standardizzazione, per cui sono gli stessi attori che in questi giorni hanno annunciato i primi wearable, quindi auspicabilmente, potenzialmente potrebbero essere anche loro i primi a poter rilasciare nel corso all'inizio del prossimo anno i primi dispositivi che sono in grado di supportare queste funzionalità. Sì. Senta, le faccio un'ultima domanda per capire quali erano i vincoli per introdurre una novità di questo genere, perché già qualche anno fa molti si domandavano: ma perché dobbiamo ancora avere le SIM da inserire nello smartphone? Quali erano i problemi da superare? Diciamo che la specifica, il lavoro che si sta ancora continuando a fare oggi atto a preservare comunque la sicurezza. Ricordiamoci che la SIM è un dispositivo sicuro, nel senso tamper-proof, non è facilmente craccabile, quindi è un qualcosa che ha richiesto negli anni, ha garantito negli anni anche il successo della tecnologia radiomobile GSM. Oggi lo sforzo che si sta facendo è di poter traslare tutte quelle modalità di sicurezza e evitare che si possano compromettere sia le reti che l'autenticazione dei clienti stessi. Quindi lo sforzo che è stato fatto, per cui oggi a parte miniaturizzazione dei componenti, quindi oggi è possibile ottenere dei dispositivi via via più piccoli che quindi hanno la necessità di avere delle SIM più piccole all'interno, si sta lavorando affinché vengano garantiti gli stessi livelli di sicurezza. Quindi lo sforzo che è stato fatto in questi anni e in questi mesi, c'è stato un rush abbastanza forte da parte degli operatori, delle manifatturiere e di tutta la comunità per garantire gli stessi livelli di sicurezza. Molto bene, Cozzolino, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a lei, arrivederci. Un'altra novità che è stata presentata al Mobile World Congress è una nuova alleanza, e fin qua potremmo anche dire, vabbè, l'ennesima alleanza, ma il concetto e l'idea che sta dietro questa alleanza è molto interessante. Utilizzare le tecnologie che sono state sviluppate per il 4G, per l'LTE che oggi molti di noi utilizzano, bene, utilizzare queste tecnologie su frequenze non licenziate, quindi non su quelle frequenze dove gli operatori telefonici hanno pagato fior di quattrini per operare con questa tecnologia, ma utilizzare frequenze non licenziate, così come oggi dove funziona il Wi-Fi, ad esempio. L'idea è proprio quella di creare reti locali, come potrebbero essere le reti Wi-Fi, ma utilizzando e sfruttando la tecnologia LTE 4G, che ha tutta una serie di caratteristiche di robustezza che migliorano la qualità del segnale rispetto al Wi-Fi. Una prospettiva molto interessante. Ne parliamo con Gianluca Verin, che è il CTO di Atonet, che è una bella azienda italiana che tra l'altro a Barcellona ha vinto un premio per il software che ha sviluppato per creare queste reti locali proprio basate sulla tecnologia 4G, che già da tempo utilizza in varie situazioni in giro per il mondo. E Atonet è l'unica società italiana che fa parte, assieme a Qualcomm, Intel, Nokia, Ericsson, grandi nomi internazionali, di una nuova alleanza che si chiama Multifire, che è stata proprio presentata al Mobile World Congress. Allora, di che cosa stiamo parlando, in che cosa consiste questa novità, quali sono i vantaggi di questa nuova tecnologia, o meglio di una tecnologia che già conosciamo ma che viene veicolata, che verrà veicolata su nuove frequenze, e poi verranno costruiti anche i terminali, i router con questa tecnologia. È un consorzio di aziende nato, tra cui fondatori c'è Intel, Qualcomm, Ericsson, Nokia, e ci siamo anche noi, siamo ovviamente gli unici italiani, che puntano a mostrare come utilizzare con la tecnologia LTE lo spettro non licenziato. A cosa serve questo? Serve a potersi creare delle reti a casa o in ufficio o al lavoro, delle reti dedicate che possano mostrare tutti i benefici che ha l'LTE, che sono una qualità di servizio per la voce, una capacità di dare dei servizi dedicati machine to machine, l'Internet of Things. Quindi l'industria si sta pian pianino rendendo conto che avere tutta la frequenza, diciamo, licenziata è un bottleneck, cioè non permette all'industria stessa di svilupparsi così come vorrebbe, e quindi stanno cercando di poter abilitare, ed ecco perché noi facciamo parte di questa cosa, abilitare ed aprire le reti mobili anche per i privati, anche a casa, su frequenze che sono di solito soltanto Wi-Fi. Ovviamente c'è tutto un lavoro da fare su questo aspetto, perché le due tecnologie dovranno coesistere, e quindi c'è tutto un lavoro tecnologico, però la direzione è abbastanza chiara. Noi vogliamo che abilitare l'utente finale a farsi le sue reti, ecco perché anche noi, voglio dire, vogliamo giocare il nostro ruolo in questo. Sarà una tecnologia che utilizzeranno i cittadini, quindi mi potrò fare la mia rete di casa utilizzando la tecnologia 4G, quindi l'LTE, o sarà un prodotto che verrà utilizzato soprattutto dalle aziende? Magari all'interno di uno stabilimento io mi creo una rete, o che ne so, anche all'interno di un albergo, di un aeroporto. Sarà entrambe le cose, e andrà a sostituire, diciamo, il Wi-Fi, questa è l'idea, e andrà a sostituire il Wi-Fi anche per le cose, diciamo, per le applicazioni che adesso vediamo il Wi-Fi insostituibile, cioè quelle applicazioni che non hanno la SIM card. Cioè c'è tutta adesso una standardizzazione che sta mettendo in moto, per cui si potrà autenticare un device anche senza la SIM card. Beh, questa è una prospettiva molto interessante, perché si inserisce nel più vasto capitolo dell'abilitazione a tutti i servizi Internet of Things. Se noi pensiamo a tutto quello che può essere creato e si creerà collegando gli oggetti alla rete internet, questi oggetti hanno bisogno di connettività che deve essere affidabile, robusta, permanente, e abbiamo parlato anche recentemente di altre reti che si stanno costruendo per la Internet of Things, e in questo caso ci si sta rendendo conto che le reti Wi-Fi soffrono di mille problemi, soprattutto quando ci sono molte reti che si interferiscono, quando c'è congestione. Ecco, utilizzando su quelle frequenze la tecnologia 4G, che poi probabilmente verrà evoluta anche verso il 5G, in questo modo le aziende, o anche noi in casa per la smart home, oppure le città per la smart city, tutti noi potremo crearci delle reti sulle quali poter connettere molti oggetti. Ovviamente saranno reti che in una prima fase convivranno con il Wi-Fi, ma l'idea di questa alleanza è di sostituire la tecnologia Wi-Fi, e ovviamente questa tecnologia convivrà a maggior ragione con le reti di telefonia mobile. Ma andiamo verso un futuro in cui ci saranno più reti per gestire la Internet degli oggetti che stiamo costruendo. È tutto per questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione, continuate a scrivermi al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, ci trovate anche su Facebook, su Twitter, avete ascoltato la versione podcast del nostro programma con tutte le nostre interviste in versione integrale, solo ed esclusivamente per chi scarica il file MP3 della nostra trasmissione o lo ascolta in streaming dal nostro sito attraverso le applicazioni che gestiscono il podcast. Stiamo lavorando anche ad una sorta di classifica, visto che molti ascoltatori hanno raccolto l'appello, e vi ringrazio per scriverci e per suggerirci l'applicazione che utilizzate, per segnalarci l'applicazione che utilizzate per gestire il podcast di 2024, e immagino anche gli altri podcast di Radio 24 o di altre radio italiane o internazionali, o non solo, perché ormai c'è una bella offerta di podcast anche indipendenti, e questo sicuramente sarà una parte del futuro della radio. Ci risentiamo la prossima settimana.